TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Crisi energetica, l'emergenza prezzi dei carburanti e le possibili misure in un tavolo tra la regione, le associazioni e i sindacati. Neve di primavera e temperature in discesa per il passaggio del fronte freddo, vento a quasi 150 orari sul Monte Rest. Diritti civile, l'autodenuncia degli attivisti che aiutarono Martina Opelli ad andare in Svizzera per il suicidio assistito. Violenza femminile e di genere, un documento della Consulta femminile di Trieste punta a un impegno condiviso e partecipato di istituzioni e cittadinanza. Il terremoto del Friuli, la piccola guerra di una generazione, a Monfalcone, l'ultimo libro di Toni Capuozzo, la nostra intervista. Basket, rediviva Gesteco, successo largo su Roseto, ma ora per i playoff serve ancora uno sforzo, domenica a Livorno una partita chiave. Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. Caro carburanti, approvvigionamenti, sostegno alle aziende, questi temi al centro del tavolo al quale questa mattina a Udine hanno partecipato l'assessore regionale alle attività produttive Bini e le associazioni di categoria e le sigle sindacali. Su questo vi faremo ascoltare fra pochissimo un servizio, ma nel frattempo vi diamo conto dei controlli degli uomini della Guardia di Finanza di Trieste negli impianti di carburante che lo scenario globale determinato dal conflitto in Medio Oriente ha proiettato al centro dell'attenzione per l'impennata dei prezzi energetici. L'attività delle fiamme gialle punta ad assicurare la necessaria trasparenza dei prezzi praticati al pubblico e la regolarità delle operazioni di rifornimento presso gli impianti. Due distributori stradali sono stati sanzionati dalle fiamme gialle per omessa comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di prodotto energetico, una prescrizione che è correlata all'obbligo di praticare i prezzi di vendita comunicati al Ministero. La multa prevista in questi casi può raggiungere i 2.000 euro. Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, attraverso il suo presidente Nicolò Pancera, chiede all'Unione Europea una norma temporanea come quella introdotta dalla Commissione Europea per sostenere l'economia durante la pandemia di Covid-19, per consentire alle imprese di tirare una boccata d'ossigeno garantendo l'autonomia strategica degli approvvigionamenti. Sì, dunque, ad aiuti di Stato più flessibili per le aziende in difficoltà, come proposto dalla commissaria Ursula von der Leyen, ma legati al congelamento del patto di stabilità. Il presidente regionale di Confagricoltura ricorda nel recentissimo impatto del conflitto, oltre alla caro energia, anche l'impennata dei prezzi dei fertilizzanti. Il costo dell'urea è passato da 55 euro al quintale a 75 euro e si stanno verificando anche casi di indisponibilità di prodotto. Il rischio è che la stagione estiva venga compromessa, conclude Pancera. La guerra in Ucraina, Trump e il futuro della sicurezza europea, ne parlerà oggi a Trieste Nona Michelizze, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, ospite dell'Associazione Dialoghi Europei, nell'Aula Magna della Scuola Interprete in Via Filzi alle 17:30. Vento forte e termometro giù in tutta la regione dopo il fronte che nella notte e nelle prime ore di oggi ha portato piogge abbondanti e neve in montagna. Le precipitazioni sono alle spalle, bora e temperature invernali resteranno per qualche giorno. Quello che era stato annunciato come il colpo di coda dell'inverno in regione si è rivelato tale più che altro per il forte vento, registrato tanto sulla costa, dove a Trieste ha toccato i 94 km orari, che su pianura e montagna, dove le raffiche hanno superato rispettivamente gli 80 e i 100 km all'ora, con una punta di 147 all'ora sul Monte Rest. Vento che ha accompagnato un deciso abbassamento delle temperature rispetto agli ultimi giorni. Il calo è stato di circa 7-8 gradi sulla costa, di 5 in pianura e di 10 gradi in montagna, dove la quota neve è anch'essa scesa di circa 700 metri. Precipitazioni nevose si sono registrate su Alpi e Prealpi, con in particolare il Tarvisiano leggermente imbiancato fino a fondovalle. Neve anche sulle vette del Carso alle spalle di Trieste, come il Monte Taiano e Nanos in Slovenia. Pioggia invece sul resto del Friuli Venezia Giulia. L'intensità maggiore, tra i 30 e i 40 mm, si è avuta sulla costa e sulla bassa pordenonese. Questa è stata anche la zona in cui ci sono stati più interventi dei vigili del fuoco, una quindicina circa per la rimozione di alberi o materiali sulla strada o la caduta di pali e fili elettrici. Il maltempo ha causato anche qualche disagio alla circolazione ferroviaria sulla linea Venezia-Udine nelle prime ore del mattino, per alcuni danni alla linea registrati a Mestre. La situazione è destinata a migliorare già nelle prossime ore, in cui il tempo sarà nuvoloso in attesa del sole che dovrebbe ritornare sabato, sempre però con temperature sotto la media del periodo. La Protezione Civile ha comunque prolungato l'allerta meteo per vento forte su pianura e monti fino a mezzanotte. Per lo stesso motivo resteranno chiusi gli impianti di risalita a Sella Nevea. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vediamo quali sono state le temperature registrate alle 11 a Trieste: 10 gradi con il vento da est-nord-est bora che soffiava a 39 km orari con raffiche che hanno sfiorato i 95. A Pordenone 12 gradi, a Udine 11,5, a Gorizia 11, nell'area montana Tolmezzo 9 gradi, a Tarvisio 1,5 gradi, a Sappada mezzo grado sotto lo zero, a Forni di Sopra 5 gradi positivi, sullo Zoncolan -3,5, sull'Useri -5,5 e sulla costa grado 11,5, a Lignano 7,5. Le previsioni in giornata, le precipitazioni cesseranno, ma il cielo rimarrà coperto e le temperature basse. In quota ancora vento forte e freddo che determinerà condizioni proibitive oltre i 1500 metri. Possibili ulteriori raffiche anche in pianura e domani cielo in prevalenza nuvoloso con venti da nord o nord-est, in genere moderati su pianura e costa, mentre in quota sui monti saranno forti e freddi. Temperature sotto la norma del periodo. E ora siamo al tema in primo piano oggi, il caro carburanti, gli approvvigionamenti, il sostegno alle aziende, questi temi al centro del tavolo al quale questa mattina a Udine hanno partecipato l'assessore regionale alle attività produttive Bini e le associazioni di categoria e le sigle sindacali. Sentiamo. La Regione potrebbe riportare in vita le misure contro il caro bollette a favore delle piccole e medie imprese già sperimentate nei mesi successivi all'inizio della guerra russa in Ucraina nel 2022. Allora furono distribuiti 14 milioni in favore delle aziende più colpite dai rincari di gas e luce. E uno degli elementi emersi durante l'incontro convocato dall'assessore regionale attività produttive Sergio Bini con quasi 30 rappresentanti del mondo economico. Per Bini l'impatto di questa guerra è stato nell'immediatezza più forte rispetto a quanto avvenuto 4 anni fa con la guerra russa in Ucraina e gli effetti li abbiamo visti tutti alla pompa. Gli interventi al tavolo hanno fornito un quadro generale di preoccupazione per gli aumenti di benzina e soprattutto gasolio. Secondo la direttrice dell'UNEM, l'ex Unione Petroliferi Marina Barbanti, le tensioni sui mercati di petrolio e derivati non sono destinate a risolversi presto, anzi da un problema di prezzi potremmo arrivare presto a un problema di approvvigionamento, prima per il carburante degli aerei, poi per il gasolio. Diversi oratori hanno sottolineato l'importanza di investire in rinnovabili e hanno approvato gli incentivi della regione per le aziende sul fotovoltaico, ma allo stesso tempo hanno criticato le lunghe attese per gli allacci alla rete. Tra i timori manifestati c'è il rischio che l'aumento delle bollette nei prossimi mesi, unito al caro gasolio, possa incidere sul tasso di inflazione e quindi gravare sul potere d'acquisto delle famiglie, già fiaccato con la fiammata inflattiva del 2022. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Abbiamo aiutato Martina Opelli ad andare in Svizzera per il suicidio assistito. L'autodenuncia di Marco Cappato e altri attivisti dell'Associazione Soccorso Civile è stata presentata poco fa in questura a Trieste. Un gesto per riaprire il dibattito sul fine vita dopo la battaglia intorno al caso della triestina affetta da sclerosi multipla per 20 anni e morta 8 mesi fa dopo le vane richieste da Sugi. Sentiamo Marco Cappato. Martina Opelli aveva denunciato il servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia perché l'aveva negato l'aiuto medico alla morte volontaria nonostante lei rientrasse nelle condizioni per avere questo diritto. Ora c'è stata l'archiviazione del servizio sanitario, dei responsabili, e a questo punto noi ci siamo autodenunciati perché abbiamo fornito l'aiuto a Martina per andare in Svizzera. Delle due l'una: o ha commesso un reato il servizio sanitario della regione nel negare questo aiuto, o abbiamo commesso un reato noi nell'aiutare Martina. Non c'è una terza possibilità e quindi chiediamo alla giustizia di accertare le responsabilità di quanto accaduto. Questo potrebbe portare a un processo. Questo potrebbe portare a un processo che per noi sarebbe l'occasione di accertare le responsabilità di quello che è accaduto. In più, da un punto di vista politico, siamo in una regione dove il Consiglio regionale ha respinto perché incostituzionale la legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni Liberi Subito. La Corte Costituzionale ha invece stabilito che è pienamente competenza delle regioni legiferare in materia, quindi noi chiediamo al Consiglio regionale di riprendere l'esame della proposta sottoscritta da 8.200 cittadine e cittadini di questa regione. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Violenza femminile di genere, la Consulta femminile di Trieste ha presentato questa mattina il documento Verso un manifesto positivo. Sentiamo di cosa si tratta. L'obiettivo è quello di evidenziare un percorso per prevenire la violenza contro le donne e di genere e costruire una società più consapevole e inclusiva attraverso un impegno condiviso e partecipato da parte di istituzioni e cittadinanza. È stato presentato questa mattina a Trieste il documento Verso un manifesto positivo a cura della Consulta femminile di Trieste. Il documento è il risultato di una serie di attività avviate dalla Consulta attraverso il progetto Direzione e Rispetto. Un percorso iniziato a novembre 2024 con l'intento di affrontare la violenza contro le donne e la percezione di questa problematica da parte della popolazione. Una sensibilizzazione partita attraverso le esposizioni della mostra Com'è rivestita, l'abito non è un alibi, in occasione delle quali un quaderno rosso messo a disposizione dei visitatori ha permesso di raccogliere pensieri e testimonianze sul tema. Successivamente, tramite una call to action dal basso rivolta sia alle donne che agli uomini, fino a inizio febbraio del 2026 sono state raccolte considerazioni, riflessioni, esperienze personali e proposte utili alla redazione del testo, grazie a un form anonimo online che ha visto la partecipazione di oltre 400 persone. Le linee di intervento nascono dall'analisi del report, che restituisce un quadro chiaro e allo stesso tempo complesso. La maggior parte del campione non ritiene che la violenza sia giustificabile, l'83,7%, ma circa il 15% degli intervistati ha indicato che in alcune circostanze potrebbe essere considerata giustificabile. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Al nuovo ospedale di Pordenone è attivo da oggi il Day Hospital Medico negli spazi del Corpo C, quello rosso al piano terra. La nuova struttura centralizza le attività di degenza diurna che in precedenza facevano capo al Day Hospital Medico e al Day Hospital Medico Specialistico. Nello specifico afferiscono al nuovo servizio le prestazioni delle seguenti specialità: medicina, reumatologia, cardiologia, neurologia, nefrologia, radiologia interventistica e pneumologia. Rimangono invariate le sedi delle attività ambulatoriali, che dunque continueranno a operare presso l'attuale sede del vecchio ospedale. Al centro di riferimento oncologico di Aviano è stato presentato il servizio di dermopigmentazione, che consente di tatuare l'areola mammaria, aiutando le pazienti operate al seno a ristabilire fiducia e autostima. Trattamento non soltanto estetico, ma con un alto valore riabilitativo e psicologico, per aiutare una donna a superare il disagio post-operatorio e a ritrovare l'autostima. La dermopigmentazione al seno e la possibilità di tatuare il complesso areola capezzolo, un servizio per un percorso che diventa completo con un macchinario presentato al centro di riferimento oncologico di Aviano, acquistato grazie ai fondi donati dai partecipanti alla manifestazione solidale Aviano Corre in Rosa. L'unità senologica del CRO si conferma centro europeo di eccellenza Eusoma. Il miglioramento delle cure, spiega il direttore della chirurgia oncologica del seno del CRO, Samuele Massarut, ha notevolmente aumentato la sopravvivenza delle donne affette da carcinoma mammario, che rimane il tumore più frequente in assoluto e la prima causa di morte prematura tra le donne in tutto il mondo. Grazie alla prevenzione, che tra l'altro in regione è molto efficace, e grazie ai nuovi farmaci, ai nuovi trattamenti, la sopravvivenza a 5 anni ha raggiunto l'88% del tumore della mammella. Negli ultimi 10 anni si è visto un incremento del 6% della sopravvivenza, quindi è un tumore che si cura sempre di più, ed è proprio per questo che è anche importante migliorare la qualità della vita, perché se prima eravamo preoccupati soprattutto di curarle, adesso dobbiamo ridare anche una vita sociale, psicologica, familiare, normale. La tecnica del macchinario prevede l'impiego di apposite cartucce sterili e monouso, dotate di aghi molto fini che trasferiscono con estrema precisione nell'epidermide una piccola quantità di pigmento biocompatibile, riassorbibile e sicuro, che crea un effetto 3D. Aviano, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stata eseguita una misura cautelare in carcere ai danni di una 32enne campana accusata di truffa aggravata ai danni di 3 anziani nella Bassa Friulana. I fatti risalgono all'agosto 2024. Con la tecnica del finto incidente, la donna con un complice ancora non identificato telefonava alle vittime fingendo gravi sinistri causati da parenti, chiedendo denaro per evitare l'arresto. In questo modo si è fatta consegnare circa 2.400 euro e oggetti preziosi. Le indagini dei carabinieri di Latisana, tra testimonianze e videosorveglianza, hanno portato al provvedimento del GIP di Udine. La donna era già detenuta per altri reati. Prosegue e si rafforza anche per il 2026 il servizio Passo Barca sul fiume Tagliamento, che collega Lignano e Bibione e garantisce continuità ai percorsi ciclabili tra le due sponde. Dopo il successo del 2025 con 115.000 passeggeri e 98.000 biciclette trasportate, il servizio sarà potenziato. Partenza anticipata a fine marzo, chiusura a inizio novembre e corse ogni 30 minuti. L'obiettivo è facilitare la mobilità sostenibile e l'integrazione tra i due poli turistici, valorizzando anche l'area naturalistica della foce del Tagliamento. Costo complessivo di circa 235.000 euro, tariffe invariate, 1 euro a persona con bici inclusa, gratis per i bambini fino a 10 anni. La matematica, un gioco da ragazzi per chi la mastica fin da piccolo. È il caso dei 7 studenti del Galilei che hanno vinto a Trieste la competizione Coppa Aurea e presto parteciperanno alle gare nazionali. Loro sono i Papocchioni, è così che hanno chiamato la squadra con cui hanno vinto a inizio marzo la Coppa Aurea, la competizione di matematica tra istituti superiori organizzata dall'Università di Trieste. Un trofeo che la loro scuola, il Liceo Galilei, ha conquistato così per la prima volta, interrompendo il dominio ventennale delle scuole venete. In qualità di capitano posso dire che sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto insieme come squadra. E veramente non avrei potuto chiedere squadra migliore. Fino all'ultimo c'era un testa a testa tra noi e la seconda squadra, c'erano solo 4 punti di differenza, quindi non potevamo sapere. Gli ultimi 3 minuti non vedevamo le classifiche. 7 piccoli geni della matematica, una passione che coltivano da sempre. Quando avevo 4 anni mi divertivo a fare calcoli a mente, a dire il vero riuscivo a fare calcoli meglio allora che adesso. Penso che mi sia sempre piaciuta comunque fin dalle elementari. Mia madre ha fatto la laurea in matematica, anche insegnato all'Università Militare dell'Avana, e quando ero in prima elementare mi ha messo in mano un libro su matematica ricreativa con numeri primi e frazioni. A loro calcoli e logica piacciono e si divertono anche, e a chi diffida della matematica dicono è un problema che si può risolvere. Nel momento in cui si va oltre, secondo me, a ciò che ci vuole a semplicemente risolvere un certo problema e si riesce a capire perché si svolge così, secondo me è difficile continuare a odiare la matematica. Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Le colombe della pace di Emergency ritornano nelle piazze italiane in occasione delle festività pasquali a supporto del lavoro della ONG nei fronti di guerra come a Gaza, in Ucraina e in Sudan. Saranno 8 i banchetti da domani sparsi nei diversi capoluoghi di provincia della regione. Il primo banchetto in anteprima è operativo oggi alle Stanze in provincia di Pordenone, in via Dante, fino alle 13. I giornalisti Paolo Mieli e Toni Capuozzo sono tra gli ospiti della seconda giornata del Geografie Festival di Monfalcone, che questa mattina ha già visto sul palco del Teatro Comunale anche Piero Dorfles. Nel pomeriggio alle 16 un incontro in Piazza della Repubblica con Andrea Bellavite e alle 17.30 il dialogo tra Mieli, editorialista e storico, con Lucio Gregoretti. I due incroceranno i loro ultimi saggi, rispettivamente Il prezzo della pace e L'isola dei Beati. Alle 21 al Teatro Comunale la presentazione in anteprima di Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. Il libro che Toni Capuozzo ha pubblicato con la Biblioteca dell'Immagine in occasione del 50° dal terremoto del 1976. Capuozzo ci spiega perché l'evento fu come una piccola guerra di un'intera generazione. Nella guerra, le guerre autentiche che purtroppo non mancano oggi, c'è sempre un nemico a cui dare la colpa, a cui addossare le responsabilità e le tragedie. Il terremoto è una guerra della natura che ti colpisce, quindi non puoi dare la colpa a nessuno, in qualche caso sì, se una palazzina di recente costruzione crolla perché il cemento non era abbastanza armato, ci sono delle responsabilità, e ti tradisce nel luogo che è più caro, la casa, cioè non è la sciagura in funivia, la tragedia sotto una valanga di neve, insomma, quando è la terra che ti tradisce è più difficile. E da dove nasce la motivazione tua personale per scrivere questo libro? Ma volevo ricordare un po' le cose che avevo scritto a suo tempo. Ero stato, essendo friulano, il primo articolo che ho scritto l'ho inviato, mi hanno mandato in Montenegro dove c'era stato un terremoto, dicendo: beh, quello è friulano, quindi i terremoti se ne intende. È stata la prima volta che ho firmato un articolo da inviato. Io sono andato a cercare quello che è successo nei 6 mesi prima del terremoto, come in un conto alla rovescia, ed è curioso perché certi processi alla fine del mondo contadino erano già avviati, certe tendenze, l'abbandono dei borghi più piccoli in montagna erano già ben presenti. Il terremoto ha accelerato molti di questi processi che erano già in atto. È una società che deve qualcosa a quell'evento ex post? Beh sì, credo che, sai, si dice il Friuli la ringrazia e non dismentica, il Friuli ringrazia e non dimentica, e deve ringraziare innanzitutto quella generazione di uomini e donne che hanno fatto la ricostruzione, insomma, che sono tirati su. Poi la classe politica di allora e il fatto di avere tanti militari qui ha significato un aiuto grandissimo. Si apre a Gorizia la 4ª edizione della Festa dell'Editoria Indipendente con la presentazione di Viersa Lagune, la traduzione in friulano a cura di Paolo Cantarutti e pubblicata da Cudu Libri, del volume di racconti del pittore Giuseppe Zigaina, Verso la Laguna. L'appuntamento è alle 18.15 a casa Michelstetter in Piazza Vittoria. La rassegna si concluderà domenica. Alcuni spettacoli di oggi: Moni Ovadia e il Capitano Acap in Moby Dick, versione teatrale del capolavoro di Herman Melville, che debutta stasera al Teatro Bobbio di Trieste per la stagione della Contrada. Ovadia guida un cast dal quale fanno parte, tra gli altri, Matteo Milani, Giorgio Borghetti e Nicolo Giacalone. La regia è di Giuliano Ferro. Lo spettacolo sarà in scena al Bobbio fino a domenica. Sempre a Trieste, al Teatro Miela, Cecilia Di Donato mette in scena House We Left, la storia di alcune donne di transgender che vivono in casa. Un luogo che cancella l'esistenza della società. In precedenza, alle 18.30, l'incontro dal titolo Casa, dentro e fuori le mura, con la stessa attrice e la garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Trieste, Alessandra Burla. La grande musica classica al Teatro Nuovo di Udine, dove arriva stasera la pianista Lilia Silberstein con un programma che va dal romanticismo di Chopin alle visioni di Scriabin fino al gusto neoromantico di Rachmaninoff. E tra gli altri incontri di oggi, al Teatro Verdi di Pordenone, per la rassegna Revolution Green, il dottore forestale Luigi Torreggiani e l'antropologa Daniela Perco parleranno di frutti di bosco, frutti di montagna, alle 18. Le 12.52, siamo allo sport, il basket di A2. Dopo 3 sconfitte di fila torna il sorriso in casa dei Ducali. Il momento negativo ha messo fortemente a rischio la qualificazione playoff di Cividale con 5-6 a vuoto. La vittoria contro un'impalpabile ultima Roseto potrebbe dunque rilanciare gli uomini di Pilastrini in ottica playoff. 84-55 il risultato finale, con un nettissimo più 30 all'intervallo. Ottima la prestazione di Cesana, che ha chiuso il match con 22 punti. Prossimo impegno per i gialloblu domenica alle 19 in casa del Livorno, una partita essenziale per la qualificazione ai playoff. Sentiamo il commento nel post partita di ieri sera di coach Pilastrini. Dobbiamo riuscire ogni partita a mettere in difficoltà gli avversari con una prova difensiva consistente. Questo è molto molto importante. È ovvio che non basterà quello, perché bisogna poi giocare bene anche in attacco, essere pronti in tutte le cose se vogliamo fare un grande finale di stagione, però il salto di qualità vero lo dobbiamo fare a livello difensivo. È stato un buon segnale, ripeto che non ci deve illudere, perché però intanto è arrivata questa vittoria, una vittoria. Sappiamo che storicamente per noi le partite contro le squadre della fascia bassa di classifica sono molto molto pericolose. Oggi l'abbiamo vinta con autorità, di questo sono contento, però quello che ho in testa è che i giocatori sanno è che dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni difensive. Questa edizione è stata realizzata da Andrei Marušić e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni e Riccardo Ostojić, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12.54, prossima edizione alle 15, l'edizione serale andrà in onda alle 18.05 per consentire la telecronaca dell'incontro di calcio Italia-Macedonia del Nord Under 21. È tutto dunque, grazie per il vostro ascolto, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.